America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. So I want to be very clear in calling upon the Egyptian authorities to refrain from any violence against peaceful protesters. Avete sentito il presidente Barack Obama ha parlato venerdì sera al paese prendendo una posizione sull'Egitto e soprattutto prendendo le distanze dal presidente egiziano Hosni Mubarak. D'altra parte il presidente non ha risolto in quel discorso il suo dilemma, un dilemma che resta comunque valido oggi alla Casa Bianca, cioè dare continuità al regime di Hosni Mubarak pur auspicando una sua uscita, oppure appoggiare un ruolo dei militari come possibile alternativa, militari che sono ancora molto rispettati dalla popolazione, oppure ancora agevolare un vero e proprio ribaltone politico. Dicevo, questa posizione resta valida in queste ore. Il presidente e i suoi ministri, in dichiarazioni che hanno fatto ieri, hanno lasciato aperte un po' tutte le porte. Obama ha chiesto ai militari di non intervenire per non mettere in dubbio la loro credibilità con la popolazione, e difatti i militari non sono davvero intervenuti. Ha chiesto ai dimostranti di cercare il dialogo, perché senza la violenza, solo senza la violenza è possibile fare dei passi avanti costruttivi verso la democrazia, ed ha auspicato naturalmente riforme democratiche, perché il diritto di libertà di parola e di espressione, ha detto, sono fondamentali per tutti. Devo dire che secondo me dall'esito di questo dilemma alla fine dipenderà il futuro dell'Egitto, degli equilibri del Mediterraneo, del processo di pace in Medio Oriente. È una decisione molto difficile quella che deve prendere la Casa Bianca, e soprattutto quella che poi maturerà sul campo, perché è chiaro che l'uscita da questa crisi prenderà poi corpo direttamente in Egitto. Ecco, non dimentichiamo la componente economica a breve. Già venerdì abbiamo visto come la borsa ha reagito alle notizie di destabilizzazione al Cairo. Ebbene, un'altra crisi prolungata, una crisi di fiducia sui mercati nel momento in cui si cerca di consolidare la ripresa sarebbe disastrosa. Pensate cosa succederebbe in termini di aumento del prezzo del greggio, di rimbalzi sui tassi di interesse e così via, così via. Comunque sentiamo le dichiarazioni di ieri di Hillary Clinton, che hanno confermato la posizione di fondo degli Stati Uniti nei confronti dell'Egitto. We are on the side, as we have been for more than 30 years, of a democratic Egypt that provides both political and economic rights to its people, that respects the universal human rights of all Egyptians. Il segretario di Stato Clinton ha parlato ieri in un'intervista televisiva di transazione ordinata dei poteri. Ha detto che Mubarak non ha fatto abbastanza, ha chiesto elezioni eque per una reale democrazia. In qualche modo sembra che il Dipartimento di Stato si sia mosso ancora più in là, non solo ha lasciato Mubarak, ma cerca di premere per uno sviluppo democratico che potrebbe dare spazio alle forze che oggi si ribellano. Il problema è quali forze, chi vincerà. Questo non lo sappiamo, la situazione è molto pericolosa, ci sono i gruppi islamici ovviamente che premono. È vero che da rivelazione di Wikileaks abbiamo saputo che l'ambasciatore al Cairo Margaret Scobie, come ha riferito in un dispaccio del 2008, ha incontrato un giovane dissidente egiziano del movimento 6 aprile nel momento in cui rientrava da un viaggio a Washington che lei stessa aveva favorito. Questo giovane era andato nella capitale americana per parlare con interlocutori politici e presentare il suo punto di vista e quello dei suoi fedelissimi. Il nome resta ovviamente assolutamente segreto per proteggerlo. Quando l'ambasciatore incontra il giovane di ritorno da Washington, viene informata che il giovane stava programmando con un gruppo di militanti di rovesciare il governo Mubarak, virgolettato, nel 2011, prima delle elezioni. Quindi stiamo parlando di una pianificazione che, se in effetti è quella che abbiamo visto oggi nelle piazze, dovrebbe essere molto credibile. Nel dispaccio si dice che diverse forze di opposizione egiziane avevano raggiunto un accordo per appoggiare questo piano che, virgolette, di nuovo, è talmente delicato da non poter essere scritto, per una transizione verso una democrazia parlamentare con meno potere al presidente, più potere al primo ministro e al Parlamento. Ecco, governo democratico pro-occidentale, ecco, questa è la vera domanda, perché se questo fosse lo sviluppo, naturalmente tutti potremmo e dovremmo essere rassicurati, ma ci sono veri dubbi che questo possa succedere. Per prima i dubbi l'ha avuto l'ambasciatore Scobie, che è una diplomatica di carriera e tuttora al Cairo, ed ha osservato nel suo dispaccio che il piano non sembrava realistico e aveva dubbi che potesse funzionare. Sentiamo ora Mohammed al-Baradei, ricordiamolo, era il capo dell'Agenzia Atomica Internazionale, dunque il capo delle ispezioni in Iran, un personaggio supra partes, egiziano, è tornato al Cairo alla scadenza del suo mandato, è diventato un personaggio di altissimo profilo pubblico. Sentiamolo in questa intervista che ha dato una rete televisiva americana. I think this is a hopeless, desperate attempt by Mubarak to stay in power. I think it is loud and clear from everybody in Egypt that Mubarak has to leave today. Al-Baradei sostiene nell'intervista che gli Stati Uniti stanno perdendo credibilità perché da un lato parlano di transazione democratica, dall'altra sembrano dire, afferma Baradei, che questa transizione dovrebbe partire e venire da una continuità del governo o di un governo che comunque è stato dittatoriale, e dunque spinge per la posizione di molti, quella cioè che da questa rivoluzione di piazza potrà emergere un governo democratico pro-occidentale. I realisti a Washington, come Barry Rubin, ad esempio un esperto di Islam e di Medio Oriente, sostengono che il rischio è troppo elevato per cedere il potere alla piazza, perché dice nella migliore delle ipotesi questo porterà a un Egitto democratico pro-occidentale, certo, ma nella peggiore potrebbe precipitare il più importante paese arabo nelle mani di fondamentalisti islamici, anti-americani, antisemiti e anti-occidentali in genere. Per questo il dilemma di Obama, di cui vi parlavo prima, non è da poco, perché dalla sua scelta potrebbe dipendere la perdita o meno dall'Egitto nello schieramento che oggi cerca di portare ordine nel sistema internazionale e di contenere le pressioni che giungono dall'Iran o da altri gruppi estremisti. Ricordiamolo, in Egitto i gruppi islamici sono sunniti, non sciiti come in Iran, ma il loro denominatore comune resta comunque un denominatore comune anti-israeliano e anti-occidentale. Queste voci giungono direttamente dalla piazza in Egitto, sono un documento straordinario raccolto dalla CNN e non è un documento rassicurante, perché le persone intervistate non sembrano essere appunto democratiche o pro-occidentali, sono persone che rivendicano il loro diritto alla libertà e quindi la loro liberazione dalla dittatura sì di Hosni Mubarak, ma rivendicano la libertà per poter attaccare Israele, per poter destabilizzare il mondo arabo, per poter portare la libertà anche al popolo palestinese, e certo queste non sono buone notizie. Vi ricordo un paio di episodi del passato in cui l'America favorì la piazza, era il 1978, davanti alle insurrezioni in Iran si doveva decidere se sostenere l'alleato, lo Shah, che era un monarca assoluto, lo si abbandonò, Jimmy Carter favorì la piazza, non si pensava che l'ayatollah Khomeini potesse prendere il potere in modo assoluto, si credeva che il popolo iraniano fosse ormai secolarizzato, abbiamo visto come è andata a finire. Nel 52 successe la stessa cosa proprio in Egitto, quando si abbandonò il re Farouk, si pensava che il nuovo regime militare sarebbe stato pro Stati Uniti, finì che fu pro Unione Sovietica, per non parlare delle elezioni recenti in Libano, nella striscia di Gaza, che alla fine hanno portato risultati contrari alle attese, hanno vinto gli estremisti islamici determinati a distruggere Israele. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. È arrivato il primo grande album del 2011. È uscito The King is Dead, il re è morto, il nuovo album dei Decemberist. Vi faccio sentire Calamity Song. As scores of innocents die and the Andalusian tribe setting the lay of Nebraska alight,